Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. In salgante il traghettatore, eccoci con Ferry Boat. Cominciamo con l'annunciarvi che da mercoledì a Roma ci sarà Zero Emission Rome, per l'appunto. È una manifestazione ormai storica dedicata alle energie rinnovabili, sostenibilità ambientale, lotta ai cambiamenti climatici ed emission trading. Sono previsti saloni tematici su energia eolica, sulle tecnologie fotovoltaiche, sul mercato dei crediti di carbonio solare a concentrazione termica. Restiamo nel campo dell'energia, notizia di questi giorni che 1000 stazioni di ricarica saranno pronte presto in Italia per le auto elettriche. È l'autorità per l'energia che ha dato via libera a questi 5 progetti pilota che prevedono proprio l'installazione di queste stazioni di ricarica per veicoli elettrici sull'intero territorio nazionale. I progetti riguardano Roma, Milano, Napoli, Bari, Catania, Genova, Bologna, Perugia e molto anche nella grande distribuzione. L'autorità per l'energia ha previsto contributi e incentivi per tutto il 2015 per ciascuno di questi punti di ricarica. E torniamo al tema della responsabilità sociale, che è uno dei protagonisti assoluti di Ferry Boat. Questo è il 10° anno di attività di impronta etica. Maria Luisa Parmigiani è il segretario generale di impronta etica e la salutiamo e le chiediamo subito di raccontare che cos'è impronta etica. Buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato. Impronta Etica è un'associazione di imprese, quindi un'associazione B2B, che 10 anni fa hanno deciso di mettersi insieme per ragionare meglio e in modo più innovativo sui temi della responsabilità sociale. 10 anni fa, mi risulta perché me ne occupavo ed ero fra i pochi che lo facevano, fra i giornalisti, 10 anni fa responsabilità sociale di imprese era un termine per certi aspetti non comprensibile. Assolutamente, anzi possiamo dire sconosciuto. Il mondo è cambiato molto in questi 10 anni. 10 anni fa c'era anche molta confusione tra la cittadinanza d'impresa e la responsabilità sociale. Noi per primi, già col manifesto del 2003, affermavamo in modo netto che non parlavamo di come si redistribuiva il valore ma di come si produceva, concetto oggi molto familiare col tema della sostenibilità. Ecco, voi avete sede, non abbiamo detto, a Bologna, quindi comunque riunite anche aziende importanti di quel territorio e avete organizzato un evento per celebrare i 10 anni in questi giorni. Sì, martedì 13, proprio in occasione della firma dello statuto fondante, 10 anni fa ci ritroviamo con importanti ospiti internazionali, perché Impronta Etica ha sempre voluto avere una dimensione internazionale ed è nata come NPO del CSR Europe, ospiti dall'OCSE, dalla Commissione Europea, dal CSR Europe appunto, per ragionare su come la responsabilità sociale è cambiata in questi anni e su quali saranno le sfide per il prossimo decennio. Ecco, questa è una domanda a cui ho cercato di rispondere anch'io, come è cambiata? E fra le luci e le ombre mi sembra di poter dire che tutto sommato sono di più le luci in questi 10 anni, così ve la condivide? La condivido a pieno, direi che siamo passati da una percezione di un'attività residuale a un'idea di un modo di fare business. Io poi ho un'altra teoria sulla quale le chiedo un parere, è che comunque ci avviamo verso una stabilizzazione del concetto, cioè vuol dire da qui a qualche anno, o forse già così, se l'azienda non è responsabile rischia di uscire fuori dal mercato, perché l'attenzione dell'opinione pubblica e dei consumatori ormai è molto alta, anche grazie a internet. Sì, anche se sono sempre dell'idea che sia importante fare responsabilità sociale più per il grado di positività e di incremento di competitività che essa determina, che non per evitare il rischio di boicottaggio, di perdite di quote di mercato connesse a comportamenti consapevoli del consumatore, perché il nostro consumatore è più consapevole di una volta, ma non così consapevole da essere effettivamente un censore dell'attività essere dell'azienda. Essere in grado di premere fino a quel punto. È il mercato comunque che chiede responsabilità all'impresa. Presa, questo lo possiamo dire. Bene, grazie, in bocca al lupo per l'evento e complimenti per i 10 anni. Okay, grazie. Questo è tutto per Ferry Boat. Vi ricordo che potete scrivere e segnalare le vostre iniziative a ferryboat@radio24.it. In redazione, come al solito, Anita Panizza, in regia Calmero Lauricella. Alla prossima.